voluto assai restare lì con te, ma ho perso ogni speranza adesso. Mi resta la tua foto e me stesso. E sognami adesso, l'amore che ho perso. Non cerco un perché, verrò io da te. Sognami, amore mio, non resterà nient'altro che l'amore è qualcosa che tu non potrai decidere. Aspettami perché arrivo io da te. Vorrei dirti che ho cercato anch'io un mondo per noi due, solo per noi due, e vivo ogni speranza adesso. Mi resta il tuo profumo e me stesso. E sognami adesso, l'amore che ho perso. Non cerco un perché, verrò io da te. Sognami, amore mio, non resterà nient'altro che l'amore è qualcosa che tu non potrai decidere. Aspettami perché arrivo io da te. Sognami, amore mio, non resterà nient'altro che l'amore è qualcosa che